stai lontano da sto cuore. E a te volo più pensiero, niente voglio, niente spero, caderti sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore, come io so sicuro te. Oh vita mia, oh cuore, il suo cuore, sei stato un primo amore, o prima e l'ultimo sarai per me. Quanta notte non ti vega, non ti senti in tasti braccia, non te vaso che sta faccia, non te stringo forte in braccia a me. Mesce non mi dito suon, me va chiagnere per te. Prima e l'ultimo sarai per me. Scrive sempre sta contenta, io non penso che a te sola. Non pensiero ma consola, cato penso solamente a me. Ah, che belle, tutte belle, non è mai più bella te. Sai per me, oh vita mia, oh cuore, di stupore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.